qui, certo sì, la tua tipa Halloween, la mia tipo la Julie, si gimago con i gilab a casa poi mi mira. Sala V-boy, sala V-boy. Baby sai non siamo rapper, siamo rockstar. Scooter Dark Gang come cosa nostra. Se non ci conosci chiedi alla tua donna. Yeah boy. La tua tipa mi vede e si spezza il cuore. Ho pillole in tasca come un dottore. Corro verso i soldi 24 ore. Non sono come la gente che dorme. No, no. Baby siamo delle Rolling Stones. Rolling Stones. Con le rocce dentro lo stone. Mi chiedi come sto, ti rispondo come. Come? Non mi sento come le altre persone. No. Sono un alieno arrivato su un'astronave. Devo stare alto per sentirmi a casa. Bye bye, mando un bacio solo a mia mamma. Lasciare la terra non mi dispiace affatto. Odio tutte le guardie, fanculo lo stato. Non sei come me, non fare quel che faccio. Autopsia, oh mio Dio, vogliono aprirmi il cranio. Lo faccio per i quattro stronzi che amo. Fumo con te se non ti conosco, fra non fotto con te, io non ti conosco.